Il romanzo della fanciulla, secondo racconto, per Monaca. 1. Canterellando una canzoncina popolare, Eva Muscettola girava intorno al bruno tavolone oblungo, su cui erano posati tanti cestini da lavoro, piccoli e grandi. Frugava con le dita irrequiete dentro questi cestini, cavandone dei lembi di tela o di mussola già cucita o semplicemente impuntita, aguzzando gli occhi vivissimi ma miopi per vedere se nulla vi mancasse, i rocchetti del filo, l'agoraio, le forbici. Facendo una quantità di smorfiette carine, secondo che il contenuto del cestino le sembrasse ordinato o disordinato. Un bocciolo di rosa era passato nella cintura del suo vestito di seta nera, un bocciolo rosso rosso già quasi schiuso, simile alla bellezzina ancora incompleta, ma già prepotente di Eva. Ella canticchiava mettendo degli aghi da una cartina nell'agoraio d'argento di Giulia Capece, a cui mancava sempre tutto per cucire. Quando Tecla Brancaccio entrò, la prima, col suo fermo passo virile, portando anche quel giorno la sua giacchetta da uomo, il goletto bianco alto e chiuso, la cravatta maschile e lo spillo a ferro di cavallo. «Oh, caro, caro il mio fidanzato!» gridò da lontano Eva vedendo arrivare Tecla. «Sei puntuale come un giovanotto a un ritrovo. Sei ancora uscita a cavallo stamane? Come va, Gipsy?» «Benissimo. Non si era che sferrata ieri l'altro», rispose Tecla con la sua voce un po' dura, cavandosi i guanti lunghi di camoscio e arrotolandoli e buttandoli in fondo al suo cappellino di feltro. «E Carlo come va?» domandò sottovoce con un'inflessione affettuosa Eva. «Malissimo, naturalmente. Egli è ancora partito per Parigi per seguirla ieri sera». E si affibbiava uno strano braccialetto di ferro. «Ma perché ti ostini, Tecla? Carlo ti vuoi bene, ma ella è più forte di te, amore mio. Chissà. Non vedi che vince sempre? È bella, è bionda, sa piangere, è piena di seduzione, ama Carlo da disperata. Anche io amo Carlo. Sì, ma le donne maritate sono più forti di noi altre ragazze», soggiunse Eva con una filosofia inconscia. «Sarà, ma io non cedo». «E che puoi fare? Aspettare?» E nella breve fronte pallida, negli occhi grigi di metallo lucido e freddo, nelle sottili labbra di rosetta smorta, nel mento un po' quadrato, si leggeva la pazienza e la forza, la volontà indomabile che si raccoglie nell'aspettazione. Subito, senza dire altro, Tecla si sedette al suo posto. Tirò a sé la cesta del lavoro, che era più grande delle altre, ne cavò fuori una rude tela a righe, una fodera da piccolo materasso, un tessuto duro duro che le sue dita di ferro bucavano rapidamente. La cucitrice non levò neppure il capo. Quando entrarono Giulia Capece e Chiarina Altan, il suo lavoro e i suoi pensieri l'assorbivano completamente. «È poi giunta questa cassa da Vienna, Giulia?» domandò Eva, prendendole dalle braccia il mantello di pelliccia e sorridendo a Chiarina Altan. «Sì, non fosse mai arrivata», esclamò la bellissima fanciulla snella come uno stelo. «Tanta curiosità, tanta aspettazione. Non t'ho fatto leggere la lettera di mia zia da Vienna. Pareva che nella cassa vi fossero le sette meraviglie, proprio. Ma che si burlano di noi le sarte viennesi? Non abbiamo occhi, gusto e intelligenza che ci mandano dei vestiti azzurri carichi di rose?» «Oh, Gesù!» esclamò Eva scandalizzata. «Più un cappellino con un pappagallo verde impagliato», soggiunse Chiarina col suo sorrisetto un po' enigmatico. «Pare che sia il pappagallo della zia di Giulia, un sacrificio alla parentela, un'anticipazione all'eredità. Quando metti quel cappellino, Giulia fa una circolare alle amiche facendo appello alla loro affezione per avere pietà della tua sventura». «Io non lo metterò mai, mai!» esclamò Giulia quasi con le lacrime agli occhi. «Lo darò a Concetta, la cameriera». «Sì, che tua zia ti disereda», soggiunse Chiarina ridendo. Giulia diede una spallata. Tanto era povera, nobilissima, con la famiglia carica di debiti, fidando solo sulla propria bellezza per fare un gran matrimonio, e tutti i vecchi amici di casa, le zie straniere, i confessori, erano tutti in moto per trovare dei milioni a questa splendida creatura che intanto ne spendeva in anticipazione e la rendita. Giulia si mise a cucire di malavoglia una camiciolina da bimbo, dando certi punti lunghi lunghi, spezzando il filo ogni momento, guardandosi ogni tanto nello specchio che aveva di rimpetto. E la flessuosa persona si chinava come un fiore, Le lunghe ciglia castane ombreggiavano delicatamente le guance, la bocca rossa sembrava un melagrano lucido, succoso. Chiarina Altan, accanto a lei, tagliava in un pezzo di cotonina bianca e rosa un grembialino da bimba. E la finissima fisionomia, non bella ma traspirante intelligenza, gli occhi calmi ma profondi, la bocca pensosa, si curvavano sulla stoffa, pieni di attenzione e di interesse, come per leggere un libro o per ammirare un quadro. Intanto Eva si era anche messa al suo posto e impuntiva l'orlo di certe fasce a lunghi punti, canticchiando, mentre Tecla Brancaccio, a grandi colpi di forbici stridenti, buttava in terra il pezzo che superava dal piccolo materasso che trapuntiva. Le due sorelline Sanni Candro entrarono tenendosi a braccetto. Erano due statuine di porcellana bianca colorata di roseo, due bambolette gentiline, rotonde, con certi nasetti all'insù, i capelli ricci e l'aria infantile, malgrado che avessero 15 anni, e subito recitarono la lezioncina come bambole ben ammaestrate. Buongiorno Eva, papà ti saluta. Buongiorno cara e grazie. Buongiorno Eva, mamma ti saluta. Buongiorno carina e grazie. Si cavarono i paltoncini uguali. Posarono i cappellini eguali, restarono coi vestitini di seta nera eguali. Poi, un momento interdette, ripresero la lezione. Sta bene mamma tua, Eva? Sì, cara, è stata all'unione ieri sera, ora dorme. E papà tuo sta bene, Eva? Sì, cara, è a Gifoni, a caccia. Sta bene, Riccardo, tuo fratello, Eva? Benissimo, ma è in Scozia per le corse. E portò subito alle due bambolette che si guardavano, soddisfatte della propria recitazione, una quantità di fasce da bimbi da urlare. La specialità delle sorelline Sanni Candro in quel grande lavorio per l'ospizio dei fanciulletti abbandonati erano gli orli. Esse urlavano ogni giorno, urlavano sempre, urlavano senza fine. Chilometri interi di orli uscivano da quelle manine pazienti di statuette meccaniche. Erano sempre contente di urlare, levando ogni tanto il capo per domandare: Hai il rocchetto bianco, Eva? Hai le piccole forbici, Eva? Maria Gulli, Pausania, entrava lentamente, col suo passo di deità olimpica. A Eva, che le corse incontro, degnò sorridere. Offrì la guancia bruna e fredda di siciliana altiera, scambiò due o tre saluti con Tecla, con Giulia Capece e con Chiarina Altan. E si mise al suo posto con una misurata armonia di movimenti, strofinandosi la mano destra, dove una piccola macchia rossa era comparsa, respingendo indietro i polsini di tela bianca, tirando a sé il cestino del lavoro, dove marcava di rosso cifra e numero tutti i capi di biancheria che le sue amiche le passavano dopo averli finiti. E faceva il suo lavoro con una certa lentezza solenne, con un'aria di signorilità rassegnata a un lavoro umile, con una disinvoltura affettata di spirito superiore che si piega per bontà d'animo. Marcava la biancheria con tanta dignità di gesto che pareva sempre considerasse l'immensa felicità di quei bimbi che nella loro infanzia potevano già avere la fortuna di indossare una gonnelluccia bianca marcata da lei, Maria Gulli Pausania, la cui casa veniva subito dopo quella del re a Palermo, che possedeva in famiglia due principati, tre marchesati, quattro miniere di zolfo e un'intera provincia di aranci e di limoni. Ella inarcò le ciglia quando vide entrare quasi correndo il Frida Kapnist, l'ungherese dai grandi occhi neri, smorti e selvaggi, dai capelli bruni e ricciuti che nessun pettine arrivava a domare, dal viso pallidamente acceso, allungato come quello di una capra, dal paltoncino di uno strano color giallastro, dal vestito troppo corto innanzi che lasciava vedere i piedini sottili, sdutti. Elfrida fu accolta con una gradazione di sorrisi più o meno amabili. Eva stessa era un po' imbarazzata nel riceverla. Di Elfrida si diceva un grandissimo male e un grandissimo bene. Era una zingara scappata dalla tribù. No, signore, era la figlia di un console nobile ma povera. Era una stracciona. No, aveva una quantità di terre confiscate in Ungheria. Era figlia di una cavallerizza. Sua madre era una Radziwill. E la si faceva regalare i vestiti dai giovanotti. La duchessa della Merced le faceva la carità degli abiti. Intanto, con queste contraddizioni, con lo spirito indiavolato di Elfrida, con la sua inesauribile allegria, col suo brio di straniera un po' libera, con la sua simpatia di tipo bizzarro, ella andava dovunque, un po' invitata, un po' tollerata, un po' mal ricevuta, ma sempre presente, sempre gaia, mostrando i suoi dentini bianchi di zingarella, ballando tutta la notte, cenando a tutte le ore, non curante dei suoi vecchi vestiti, dei suoi guanti lavati, dei suoi capelli arruffati che respingevano le forcinelle. Ella baciò vivamente sulle due guance Eva e, mettendosi a cucire, annunziò: «Olga Bariatine sposa Massimo». Tutte levarono il capo, anche le due bambine San Nicandro. «E certo?» domandò Tecla Brancaccio. «Certissimo, sposano in maggio. Olga vuole andare in Russia per il viaggio di nozze». «Sarà molto, molto contenta, Olga, eh?» disse Eva con la sua inflessione tenera di persona che desidera la felicità altrui. «Contentona! Iersera Massimo è restato sino alle 12 da lei, non lo ha mai fatto». «Ah, povera Olga», sospirò Giulia Capece, «con tutti quei denari prendere quello spiantato». «Un giocatore. Mio fratello lo incontra ogni anno a Monte Carlo», mormorò Eva un momento pensosa. «Un annoiato, noioso», soggiunse Chiarina Altan. «Com'è che si è deciso il matrimonio? I Down sono molto nobili. Chi conosce i Bariatine?» domandò Maria Gullì Pausania, guardando una pila di strofinacci nuovi da marcare per le cucine dell'ospizio, indecisa se fare quest'altro sacrificio alla carità. «Naturalmente, il nobilissimo signor Massimo Down non avrà più trovato né un amico che gli presti 500 franchi né uno strozzino che gli creda, e ha finito per appagare l'ardente amore di Olga Bariatine, che poi è bellina, ricca e buona». «Ma di malavoglia, molto di malavoglia», riprese il Frida Kapnist che urlava delle cuffiette. «Stanotte a una cena fra giovanotti egli ha bestemmiato come un turco contro il matrimonio, contro la piccola Russia e contro tutta la razza slava». «Oh, che orrore!» esclamò Eva. «Non mi vorrei maritare a questo prezzo neppure per un uomo che adorassi». «Perciò non ne adori nessuno», osservò placidamente Tecla Brancaccio. Angiolina Cantelmo, che era entrata allora, abbozzò un debole sorriso. Era una persona delicata e alta, con certi occhioni azzurri pieni di fluido, con le guance colorite di un sangue finissimo roseo, un roseo giapponese di porcellana trasparente. Ella apparteneva alla più nobile, più antica famiglia napoletana, la vecchia casa Cantelmo, in cui erano tradizionali la bontà, la bellezza, il valore, la generosità. Ma da 200 anni nella casa si andava perpetuando una tradizione di sventura, una grande fatalità morale e materiale discendeva per i rami. La leggenda parlava di un delitto da espiare, a redimersi dal quale non valevano l'onestà e il coraggio degli uomini, la bellezza, la virtù, la pietà delle donne. Sempre un Cantelmo o una Cantelmo moriva di morte violenta. Una disgrazia terribile aveva portato via la madre di Angiolina, e già un fratello e una sorella bellissimi, biondi e rosei, erano stati colpiti dalla tisi. In quanto ad Angiolina, 2 anni prima l'avevano fidanzata a Giorgio Serracapriola, un giovanotto bello, ricco, elegante, scettico e indolente, ed ella, piamente, da buona e onesta fanciulla, si era messa ad amare il suo fidanzato. Il matrimonio era andato a monte per questioni di interesse fra il padre di Giorgio e quello di Angiolina. Giorgio era partito per un viaggio in yacht, un po' indifferente in fondo, e l'aveva taciuto, non si era lagnata, non aveva detto una parola con nessuno. A chi gliene parlava rispondeva con un sorriso pallido e si faceva sempre più sottile, sempre più rosea, come un cero. Aveva sempre freddo però e parlava a voce bassa. Diceva a Eva Muscettola che per il 1° dicembre si poteva contare per l'inaugurazione dell'ospizio, ma che intanto 8 o 10 delle fanciullette da ricoverarsi bisognava che si cresimassero. Bisognava trovare le madrine, pregare Monsignor Arcivescovo scegliere una chiesa privata. Il discorso divenne generale. Ognuna delle lavoratrici offrì di far da madrina. Anche le 2 San Nicandro lo dissero, ambedue insieme, come una lezioncina. Anche il Frida Kapnist, che molti accusavano di essere protestante, scismatica, turca o peggio. Solo Maria Gullì Pausania si rifiutò. In verità, non poteva accettare di essere la madrina di una straccioncella qualunque. «Non potremo fare la funzione nella cappella Cantelmo?» domandò Eva ad Angiolina. Sì, se volete, ma quelle bimbe si sgomenteranno. È così triste quella nostra cappella, e poi è così fredda, così fredda. Non ascoltate voi la messa lì dentro ogni domenica? Sì, per obbligo, rispose Angiolina, ma io preferirei una chiesetta qualunque dove ci entrasse il sole. Papà è sempre reumatizzato quando esce di là e Maria tossisce. Tu non tossisci mai, né vero, Angela? Chiese Eva levando il capo da certi asciugamani a cui annodava la frangia. Io? No, mai. Sto benissimo io. E sorrise fievolmente, increspando una gonnelluccia. Ecco qui la fidanzata, ecco la sposetta, strillò entrando Anna Doria, trascinando Olga Bariatine, la bionda grassottella, con la bocca simile alla rosa e i dolci occhi bigi. La sposina chinava il capo arrossendo, tutta confusa, abbracciando le sue amiche che l'avevano circondata coi lacrimoni agli occhi. Specialmente Eva, la buona che le teneva un braccio al collo e le veniva ripetendo sottovoce come se pregasse per lei: idio tassista, cara, cara, cara. Sapete perché Olga si marita così presto e con tanto suo piacere, signorine? Strillò Anna Doria mentre tutte riprendevano il loro posto e il loro lavoro. Probabilmente perché se lo merita, suggerì Chiarina Altan. Ma che? Gridò Anna Doria, sempre ritta in mezzo alla sala. Perché è tanto carina e tanto buona? Suggerì Eva Muscettola. Niente affatto, niente affatto, tempestò Anna Doria. Tutte più o meno ci meritiamo di maritarci, tutte più o meno siamo bonine e carine, pure quante zitelle si vanno maturando. Non parlo per me che ormai sono andata in aceto, ammuffita. Sapete perché? Olga si marita subito e come vuole, perché non c'ha la mamma. A noi le nostre mamme impediscono il matrimonio. Oh, Anna, Anna, dissero quasi tutte scandalizzate. Ti viene l'accesso, Anna? Domandò Chiarina Altan. Ma che accesso? Buone le mamme affettuose, carezzevoli, sì signore, chi lo nega? Non sono una bestia, io, malgrado le mie pretese stravaganze. Ma le mamme nostre sono le nemiche naturali del nostro matrimonio. Troppo giovani? Hanno diritto di brillare, ci chiudono in casa, ci lasciano coi vestiti corti fino a 16 anni, noi facciamo loro la concorrenza. Troppo vecchie? Allora odiano la gente, non vogliono vedere nessuno, la gioventù le secca, i ricordi sono loro fastidiosi, la felicità degli altri è loro indifferente, sono egoiste, sono vecchie. Troppo eleganti? I fidanzati diffidano delle suocere eleganti. Troppo severe? Fanno scappare a gambe levate chi voglia prendere la vita un po' allegramente. Una troppo pretenziosa per i titoli di nobiltà, l'altra inesorabile sulla questione della pietà religiosa, la terza pretende che si viva insieme, la quarta esige che si vada in provincia, una ha un capriccio, un'altra una fissazione, a questa non piacciono gli uomini biondi, quella là detesta la persona magra e addio matrimonio. Ve lo assicuro, care amiche, quelle che hanno ancora la madre e arrivano a maritarsi compiono un'opera meravigliosa. La brutta ragazza, già di 30 anni, magra, sgraziata, con le guance scarne e malamente colorite, con un rossetto che preparava lei stessa, una delle sue stravaganze, restò piantata in mezzo alla stanza con aria trionfale. Le amiche sue abbassavano il capo senza risponderle, sorprese da un gran senso di pena, urtate nei loro buoni sentimenti, urtate nel rispetto della maternità che esse avevano, e pensavano alla tragicommedia quotidiana di casa Doria, una madre che aveva troppo amato il lusso e i piaceri e aveva confinato Anna sino ai 20 anni in una specie di adolescenza oscura. Una madre a un tratto datasi alla vita austera, con tutti i difetti dell'età matura, l'avarizia, la bigotteria, la cocciutaggine, l'intolleranza. E di fronte, ogni giorno, la ribellione di Anna, Anna la pazza che litigava con la madre violentemente per tutto. Che si sentiva brutta e se ne vendicava essendo sgraziata, che si sapeva antipatica e se ne vendicava facendo delle malignità a tutti, ma più di tutti a sua madre, alla vecchia bestia, come la figliuola la chiamava. Sì, tutte soffrivano per le brutali parole che Anna Doria aveva detto, ma le due San Nicandro, che ogni sera baciavano la mano a papà prima di andare a letto e si facevano benedire da mamma per dormire tranquillamente, si guardavano in faccia, tutte pallide, con le boccucce rigonfie dei bambini che vogliono piangere. Nessuna parlava, ed Eva, che aveva il carattere più aperto di tutte le altre, cercò di mettere una parola dolcificante. Ecco qui Anna che vuol farsi credere più cattiva di quello che è. Hai la posa della cattiveria, cara, ma nessuno ci crede. Le mamme nostre ci amano, a loro modo. Non sta in noi a giudicarle. E fai benissimo tu, Eva, rispose malignamente Anna Doria, scombussolando il suo cestino per trovare le forbici. Eva impallidì, tacque, ferita. Un grande imbarazzo regnò fra le cucitrici. Pareva che nessuno osasse interrompere quel silenzio. Tecla aveva approntato coraggiosamente una seconda fodera da materasso quando Giulia Capece domandò ad Olga: «E dove li fai venire, Olga, i vestiti? Non da Vienna, spero, se non vuoi essere assassinata». «Non farli venire da Vienna, Olga», soggiunse subito Chiarina Altan, cogliendo la palla al balzo per cambiare la conversazione. «Figurati che da Vienna hanno mandato a Giulia un cappellino con un gallinaccio impagliato sopra, questo per ispirarle delle idee di buona massaia». «Oh! Un gallinaccio, poi, Chiarina!» protestò Giulia, cordialmente afflitta sotto l'incubo di quel cappellino viennese. Olga raccontava alle amiche che l'ascoltavano che ella faceva venire tutto, tutto da Parigi. In un convento di monache si ricamava già il corredo di biancheria, dappertutto il suo motto Forever, insieme all'iniziale del suo nome. Ai vestiti non aveva ancora pensato, ma per quelli da ballo non c'era che Worth, per i vestiti da sport non c'era che Royce, per quelli da mattino Carolina. E le sue amiche avevano lasciato di lavorare, l'ascoltavano avidamente, avendo innanzi agli occhi tutta una visione di stoffe, di cappelli, di veli e di merletti. «Hai pensato di farti fare delle camicie di seta?» domandò Elfrida Kapnist. «No», rispose Olga, «non sapevo che usassero di nuovo». «Oh, usano moltissimo, di una seta floscia, leggerissima, azzurra, rosa, crema, con le trine di vera Valenciennes, tutte le mondane e le altre ne hanno». Olga non rispose. Maria Gullì Pausani aggrottò le sopracciglia e scostò la sua sedia per non toccare la sedia di Elfrida. Costei sapeva dunque sempre quello che i giovanotti dicevano alle loro cene e quello che le donnine troppo alla moda indossavano. Olga aveva ripreso a dire che Massimo avrebbe voluto farle dei regali, dei gioielli, senza dubbio, quelli famosi di casa Daun, ma che ella assolutamente non li voleva. Faceva un matrimonio d'amore, dei brillanti non gliene importava proprio nulla. Le ragazze che cucivano approvavano, sorridendo, senza levare il capo, pensando ognuna in cuor suo quanto fosse ingenua e buona Olga Bariatine. I famosi brillanti di casa Daun, Massimo li aveva prima impegnati, poi venduti. Egli era un pezzente indebitato che non avrebbe potuto donare alla sua fidanzata neppure un anellino d'argento. Poi vi fu un quarto d'ora di silenzio. Tutte lavoravano. Riprese da un grande zelo, pensando agli 80 bimbi abbandonati, femminucce e maschietti che aspettavano dalle loro mani di che vestirsi. Eva, la buona, la più vivacemente affettuosa, aveva detto loro che la carità non si fa soltanto coi quattrini, ma che bisogna metterci il proprio tempo, il proprio lavoro, che infine le ore mattinali, 2, 3, sino alla colazione, potevano essere sacrificate, lavorando per le povere creature senza pane, senza tetto, senza vestiti. E quell'attività quotidiana, quel doversi occupare continuamente di altri, quell'andare e venire, soddisfaceva il bisogno di movimento e il sentimento di altruismo che era in Eva. Riempiva le sue giornate un po' vuote, un po' solitarie. La madre, apparente e sparente fra un ballo e l'altro, che dormiva a metà della giornata, spesso pranzava nei suoi appartamenti, troppo giovane per la figliola già troppo grande. Il padre che adorava ogni esercizio di sport, sempre nelle scuderie o a caccia o al tiro del piccione o alle corse, il fratello sempre in viaggio a Monte Carlo, a Baden o a Parigi. Tutti questi l'amavano Eva, madre, padre, fratello, ma a loro modo, negli intervalli di libertà che concedevano loro le passioni dominanti. E questo non bastava. Non bastava al suo ardente bisogno di amore, alla sua vitalità esuberante. Così, per sfogarsi, ella aveva messo su col suo fuoco, con la sua fiamma di affetto, questa carità delle ragazze per i bimbi abbandonati. E si dava a quest'opera con la voluttà infinita delle anime buone che mai non sanno riposarsi dall'amare e dal beneficare. Certo, Ce n'era voluto per convincere le sue amiche, per poterle riunire, massimamente le incompatibili, quella Maria Gullì Pausania che nessuno poteva soffrire per le sue arie, quella Elfrida Kapnist delle apparenze così strane, così equivoche, e quelle che entravano allora a braccetto, Giovannella Sersale, Felicetta Filomarino, non le poteva mai indurre a venir presto. Capitavano all'ultima mezz'ora, distratte, discorrendo sempre a bassa voce fra loro, e il segreto di Giovannella Sersale tutte lo conoscevano. Ella aveva dovuto sposare Francesco Montemiletto, ma costui, dopo averla corteggiata per 2 anni, aveva finito per sposare la sorella maggiore, Candida. E Giovannella non si era mai data pace di questo tradimento e la portava fieramente questo lutto. Non aveva mai voluto sentir parlare di altri fidanzati, non si sarebbe più maritata. A un tratto, non si sa come, era nata una grande amicizia fra lei e Felicetta Filomarino. Stavano sempre insieme, spesso avevano gli occhi rossi, una medesima malinconia le rodeva. Qual era dunque il segreto di Felicetta? Più taciturna, più riservata, ella non lo confidava se non a Giovannella, e certo nei loro colloqui solitari esse piangevano insieme. La loro gioventù sfiorata, la loro presenza diede un'intonazione anche più seria a quella riunione di fanciulle. Ognuna di esse, piegando il capo sul cucito, pensava ai suoi crucci. Tecla Brancaccio alla sua lotta disuguale contro una rivale preferita costantemente, Giulia Capece alla sua bellezza che trovava tanti ammiratori ma non un marito con 200.000 lire di rendita, Chiarina Altan all'ambiente frivolo e sciocco dove si consumava la sua intelligenza, Elfrida Kapnist alla sua miseria che ogni tanto le faceva subire delle umiliazioni atroci, Angiolina Cantelmo alla fatalità che dominava nella sua casa. Anna Doria alla sua esistenza atroce, senza confronti. Eva Muscettola al suo desiderio insoddisfatto di essere molto amata e di poter molto amare. Solo le due San Nicandro si consolavano. Erano tutte felici poiché in quel giorno sarebbero andate alla passeggiata della Riviera con papà e mamma. E Olga Bariatine era intimamente felice, ella che aveva amato con tanto fervore Massimo Daun e ora raccoglieva il premio del suo amore. E Maria Gullì Pausania si sentiva molto felice perché non può essere altrimenti di una discendente dei re siciliani. «Misericordia! Misericordia!» gridò Eugenia d'Aragona entrando e buttando all'aria il cappellino. «Ma che state contemplando, i 4 novissimi? Fate la penitenza dei peccati, ragazze? Volete che piangiamo tutte insieme? Oh Eva, Eva, che hai fatto?» «Ma niente, cara, niente, lavoriamo!» «Ma voi morirete a furia di lavorare! Ma volete rovinarvi il petto, gli occhi, le dita? Ma vi farete venire la nostalgia, lo spleen con tutto questo cucito? I bimbi saranno vestiti, ma qualcuna di voi si ammazzerà, ne sono certa!» Ella si gettò sopra una sedia, accavalcò una gamba sull'altra e strappò il cucito dalle mani di Angiolina Cantelmo. «Anche tu, monachella! Ma perché non mandate loro dei quattrini, molti quattrini a questi bimbi, invece di mortificarvi a cucire? Ti faccio dare 1.000 lire per i tuoi bambini, Eva mia, se smetti di cucire quel tuo grosso pezzo di tela. Oggi lo dico a papà che ti mandi queste 1.000 lire. Smetti, Evuccia, smetti. Forse che le ragazze nobili cuciono. Io non so cucire». «Mi pare strano», osservò Anna Doria malignamente. Infatti Eugenia d'Aragona, che portava con sé i 60 milioni di dote, che riuniva in sé la nobiltà di 3 famiglie, Aragona, Ognate e Messico, che aveva terre in Europa e in America, che possedeva 12 diversi feudi ed era imparentata coi Borboni di Spagna, con gli Orlean di Francia, era una figlioletta che il duca d'Aragona aveva avuto da una sarta. La bella e buona duchessa d'Aragona, colpita da sterilità, adorando suo marito, vedendo che l'immensa fortuna andava a perdersi nelle mani di nipoti indegni, aveva voluto che il marito legittimasse e adottasse la povera figlioletta della sarta. E questa creatura della strada era salita quasi sopra un trono, adorata dal padre, adorata stranamente dalla madre adottiva. Ella aveva conservato una semplicità un po' rude che nessuna istitutrice inglese aveva potuto modificare, una bontà chiassona, e aveva acquistato la prodigalità noncurante di chi non deve contare e della sua origine non si vergognava. La malignità di Anna Doria la fece ridere. «Ragazze, Se andassimo tutte a casa a colazione? Oh, finitela con questi bimbi senza camicie. Venite via, diremo a mamma che vi mandi 100 camicie per queste creature. Su, su, venite, ci sono a casa dei vestiti che devo mostrarvi, è una scimmietta che ho comprato. Andiamo, su, Eva, diglielo tu a queste imbambolate. Ho una carrozza fuori, ci stiamo in 5 benissimo. E la tua, Eva, altre 5. Maria, ci sarà anche la tua? Tu non vai mai senza carrozza. Sei grande di Spagna, di prima classe. Ci accomoderemo tutte, sembreremo una scuola. E per vincerle tutte, si buttò al collo di Chiarina Altan, fece un giro di valzer con Eva, diede 4 baci a Olga Bariatine, scompigliò tutti i cestini ed era così comunicativa la sua vivacità popolana, così fresca e giovanile la sua allegria, che un raggio di sole attraversò tutti quei cuori e di nuovo brillarono luminosi i sorrisi.